Oggi ricordiamo i martiri coreani, solo alcuni, perché sono stati centinaia e centinaia, migliaia, che nel corso del 1800, fino a 150 anni fa, sono stati uccisi a centinaia per la loro fede in Gesù. Ora, io devo confessare, e così fate un po' di esame di coscienza anche voi, che spesso io sono stato superficiale nel riflettere su coloro che sono morti per Gesù Cristo. Partendo dal tempo dei Romani, arrivando ancora oggi, perché ancora oggi c'è gente che è sgozzata perché è cristiana. Io ho sempre pensato in teoria, ma quando ho visto un film, Silence, che ha alcune scene durissime, ma che è utile da vedere per imparare cosa vuol dire seguire Gesù nella persecuzione, quando ho letto anche oggi come venivano perseguitati questi martiri coreani, ho cominciato a pensarci seriamente. Questi martiri coreani, dice il testo, non venivano uccisi, perseguitati di colpo. Chi accoglieva Cristo aveva tutta una escalation di persecuzione. Anzitutto gli venivano confiscati i suoi beni. Io cerco, quando leggo queste cose, di riflettere sulla mia vita. È come se oggi fossimo perseguitati qui in Italia perché aderiamo a Gesù Cristo e venisse la finanza in casa nostra e ci dicesse: vai via di casa, non è più casa tua, hai una ditta, hai dei poderi, basta, non possiedi più niente, vai sotto i ponti. Vedeva annullata la propria fama, magari avevano un posto anche di responsabilità nella società, degradato. Il nome cancellato dall'albero genealogico. Sei un innominato, non hai più nome. La famiglia ridotta in schiavitù. E alla fine, dopo lunghe sofferenze, la morte per il Signore. Io suggerisco anche a voi, cari amici, di approfondire questo tema. Dobbiamo avere lo stomaco molto forte, ma quella gente ha avuto una vita e ancora oggi perseguitata. Noi magari partecipiamo perché i pompieri vengono fuori e liberano un gattino che si è arrampicato su un albero e non è capace di scendere, oppure un piccione rimasto impigliato nei cavi della corrente o che cosa. Facciamo bene, noi facciamo di tutto per usare gli antidolorifici e facciamo benissimo, perché quando vediamo qualcuno dei nostri che patisce diciamo: ma possibile che non c'è una medicina adatta? E questi mali venivano inflitti apposta per la fede cristiana, amici. Ma oltre a questo, c'è ancora altra gente che patisce torture. E io mi sono accorto che fino a un anno fa non avevo mai pregato per chi era torturato. Poi mi sono fermato a riflettere sulla flagellazione di Gesù. Ho studiato come avveniva e mi sono detto: ma Gesù è stato torturato così? Ancora oggi gli uomini inventano le torture più sadiche, più diaboliche contro i loro simili. Ma io devo pregare, devo dire: Signore, ma accogli le mie piccole o meno piccole sofferenze, accogli le mie penitenze, accogli le mie preghiere per tutti questi uomini e donne, immagine della tua grandezza, che sono violentati, che sono brutalizzati. E dico: ma come si fa un uomo verso il suo simile a godere di farlo soffrire? Amici, noi preghiamo per i nostri nipotini, per carità, preghiamo per la loro scuola, preghiamo per le loro, ma preghiamo per il mondo e facciamole passare queste scene davanti ai nostri occhi, sia quelli che per Gesù hanno accettato di vedersi conciati così e di vedere la loro famiglia prostrata, sia tutti coloro che sono torturati per le ragioni più diverse, per la politica, per motivi etnici. Oh Signore Gesù, ti offriamo questa santa messa per coloro che mi hanno chiesto: mio marito farà un intervento lunedì, te lo raccomando nella messa delle 8:30. Un mio nipotino non sta bene. Preghiamo per tutto questo, ma amici, preghiamo anche per coloro che sono torturati. Preghiamo per l'umanità. Quando Gesù, il sangue che tu hai sparso diventerà completamente efficace, lo è già, perché sennò sarebbe un mondo, una giungla questa, senza le tue parole di Vangelo. Ma fai in fretta, Signore, a redimere questo mondo. Non vedi come sta andando a rotoli? Non vedi come l'uomo è calpestato? Non vedi quanta sofferenza c'è in giro? Non vedi quanta dignità umana è calpestata?